amici, allora prendiamo in mano il nostro libro con cui faremo la catechesi per un po' di tempo, intitolato Il Falsario, è un mio libro, La lotta quotidiana contro Satana, il sottotitolo, su Guarco Edizioni, lo trovate in tutte le librerie cattoliche. Abbiamo già presentato i titoli, abbiamo già incominciato a presentare il primo capitolo intitolato La vita è una lotta. E ho già messo le carte in tavola, cari amici, spiegandovi che questo non è un libro sul demonio, è un libro contro il demonio, perché è il nostro nemico, è il nostro avversario, e quindi se questo libro fosse stato scritto, non so, qualche millennio fa, l'avremmo intitolato in latino Ad Aversus Satanam, cioè contro Satana. Questo è un libro contro Satana. Ha come scopo questo libro di smascherare il falsario, cioè di smascherare, siccome Satana si nasconde, e si nasconde anche grazie all'ottima propaganda e all'ottima letteratura anche teologica di cui gode, che molte volte cerca di negare che esista o che lo declassa povero diavolo, a quasi innocuo. Addirittura poi gode un discreto credito anche nella Chiesa Satana, non mancano quelli che pregano per la sua conversione e che profetizzano che anche lui si convertirà. Quindi direi che ha un buon pubblico dentro il popolo cristiano, ma soprattutto fuori del popolo cristiano. Insomma, dentro il popolo cristiano il diavolo è diventato un povero diavolo, o addirittura hanno detto che era un mito, che era un'invenzione del male, che la maggior parte dei libri contro Satana scritti negli ultimi tempi, anche in campo cristiano, sono scritti che dicono che bisogna demitizzare i Vangeli, ma se il modo di pensare, ma no, ma il male lo facciamo noi, l'inferno non c'è, l'inferno è vuoto, Satana non c'è, eccetera. No. Naturalmente tutto questo è contro la fede. Ed è soprattutto qualcosa che colpisce al cuore il cristianesimo, come abbiamo già spiegato, perché Cristo qui sulla terra ha proprio aperto, come è chiarissimo dai Vangeli, una battaglia tremenda contro il demonio e i suoi rappresentanti. Il demonio ha cercato di eliminarlo mettendolo in croce, ma questa è stata la sua sconfitta. Ed è soprattutto nei confronti di Cristo che si è svelato il demonio, cioè non lo si conosceva così bene se non quando è venuta la luce qui su questa terra, cioè l'opera di Cristo è stata quella di smascherare il demonio e di colpire il demonio. Questa è anche l'opera della Chiesa, che è quella di smascherare il demonio, le sue imposture, le sue falsità, i suoi falsi miti, le sue false felicità, il suo falso progresso, la sua falsa morale, la sua falsa pace, la sua falsa pietà. E il compito della Chiesa è quello di smascherare le imposture del demonio, di smascherare le imposture con le quali lui cerca di sedurre le nostre anime e di portare alla perdizione. L'opera della Chiesa è quella di smascherare il demonio e di combattere il demonio con la parola di verità innanzitutto e con la forza della grazia. Dunque ieri noi abbiamo nel primo paragrafo del capitolo primo, La vita è una lotta, il primo paragrafo era intitolato Il regno dei cieli si conquista combattendo, e abbiamo sviluppato questa idea di fondo, che la vita di Cristo qui sulla terra è stata una lotta spietata fra lui e il maligno, come d'altra parte appare chiarissimo dai Vangeli, con l'inizio della vita pubblica di Gesù, quando Satana affronta direttamente il maligno e con il secondo grande assalto nel Getsemani, quando Satana vuole distogliere Cristo dal bere il calice amaro, e poi Satana, che è entrato in Giuda, cerca di eliminarlo dalla terra, ma questa sarà la sua sconfitta. E noi abbiamo visto che questo è certamente un dato evangelico indiscutibile, e Cristo ha profetizzato, anzi ha dato la regola ai suoi discepoli, che come lui stesso è stato perseguitato innanzitutto dal maligno, perché Satana è il regista delle grandi persecuzioni, come d'altra parte appare chiarissimo dagli Atti degli Apostoli, no? Oltre che dai Vangeli. Dai Vangeli appare chiaro che Satana è il grande orchestratore degli attacchi a Cristo, negli Atti degli Apostoli appare chiaro che le persecuzioni contro la Chiesa sono alzate da Satana. Ebbene, cari amici, quello che è accaduto a Cristo accade anche a noi. Il suo combattimento, la sua resistenza, la sua forza, il suo coraggio devono essere anche i nostri. E invece, purtroppo, noi ci troviamo in una situazione di grave debolezza oggi. Per quale motivo? Perché oggi sul nemico si tace. Come se non esistesse, dicevamo ieri. Il carattere militante della vita cristiana si è come dissolto. E quindi noi ci troviamo di fronte a questa situazione estremamente pericolosa, che mentre si negano che esistano i nemici, o che esiste il nemico, mentre lo si sottovaluta, e mentre non si pongono più nelle mani del cristiano le armi della fede, le armi della grazia, le armi della confessione, le armi della comunione, il nemico in questo modo ha campo libero e può fare grandi stragi nelle anime. E quindi di fronte all'uomo disarmato, impreparato, è chiaro che Satana può agire indisturbato. Il pericolo per le anime è gravissimo, cari amici, il pericolo per le anime è gravissimo. Allora, dobbiamo adesso, proseguendo sempre nel primo capitolo, La vita cristiana è una lotta, che è il libro, ha già il libro a pagina 8, e dobbiamo, cari amici, avere una grande consapevolezza di qual è la posta in palio. Cioè, si dice giustamente che Satana è instancabile, questa è una definizione di Satana che ha dato giustamente la tradizione, no? Satana è instancabile. Magari noi avessimo tanto zelo nel fare il bene quanto ne ha lui per fare il male. Non riposa mai un momento, giorno e notte sempre all'attacco. Satana è instancabile. Qual è la molla di questa attività del maligno? La molla, cari amici, è l'odio. La superbia è l'odio, vuole essere Dio al posto di Dio, vuole costituirsi un suo regno alternativo a Dio. Dio gli ha dato il permesso. Lui ha lanciato una sfida. Lo deduciamo dalla risposta che gli diede Michele: chi è come Dio? Michele vuol dire chi è come Dio. Lui, Satana, vuole essere Dio al posto di Dio, vuole costruirsi un regno suo. Questo regno è fatto da chi? Da noi, dalle nostre anime, diventate schiave di lui, schiave del suo regno di morte, di tenebre, di male, di distruzione, di aberrazione, regno dell'angoscia, regno della solitudine assoluta, regno della bestemmia, regno della desolazione. Questo è il suo regno che lui vuole costruirsi, lo sta costruendo, si chiama inferno. È chiaro che Satana vuole avere per tutta l'eternità il suo regno con il maggior numero di sudditi possibile. Già alle sue dipendenze un numero di neboni che non è da sottovalutare, se è vero quel che dice il capitolo 12 dell'Apocalisse, che dal cielo il dragone si trascinò con sé un terzo delle stelle del cielo. E allora vuole avere nel suo regno il maggior numero di anime possibile. Dunque l'instancabilità di Satana è l'odio contro Dio che lo spinge a costruire un regno alternativo. Come dice il Catechismo di San Pio X, per odio contro Dio tenta l'uomo al male. Quindi il suo obiettivo, cari amici, è quello di renderci schiavi del suo regno di morte per sempre. La posta in palio, che vede da una parte l'amore di Dio che agisce e dall'altra l'odio satanico che agisce, la posta in palio è l'uomo. E l'uomo è la nostra anima, cari amici. Non possiamo scherzare con la nostra anima. Perché se saremo salvi per sempre. Se saremo perduti per sempre. Pur di salvare le nostre anime dobbiamo essere disposti a tutto, perché persa l'anima hai perso tutto, e hai perso tutto per sempre. Dunque, cari amici, la posta in palio è la più alta possibile. Perdi tutto, ma non perdere l'anima. L'anima così preziosa ha spinto Dio a farsi uomo e a morire in croce. L'anima così preziosa spinge Satana a ogni sorta di astuzia pur di averti suo. Vediamo dunque allora questo secondo paragrafo. La posta in palio, ecco perché non si può scherzare, No, noi amiamo le barzellette su Satana, ma molte volte queste barzellette sono sataniche. Perché sono sataniche? Perché lo dipingono come, non so come dire, un povero diavolo. È qualcuno di estremamente pericoloso, di estremamente feroce. Questo noi da chi lo sappiamo? Da Gesù Cristo. Potremmo saperlo anche dalla vita dei santi, anche dalla nostra esperienza, ma da Gesù Cristo sappiamo che è omicida e menzionero. E vuole la morte delle nostre anime. Allora, non si può scherzare contro un nemico così, non si può scherzare contro un nemico così pericoloso e così feroce. Quante volte noi facciamo i suoi interessi? Quando lo rendiamo innocuo, facciamo i suoi interessi, non gli par vero. Portiamo in casa un cameriere, una donna di servizio, che è una ladra matricolata, e diciamo che è una brava donna, stiamo freschi. Ogni guerra, scrivo, si combatte per degli scopi più o meno manifesti. Gli uomini e le nazioni non esitano a distruggere e a distruggersi per i beni materiali o per ragioni di egemonia, di dominio e di potere. Sul piano politico e sociale, come su quello individuale, che è più ristretto ma più vicino alla nostra esperienza, noi siamo pronti ai più grandi sforzi per difendere la nostra vita o per migliorarla. Quali rischi e quanti sacrifici non si affrontano per il pane, la casa e il lavoro? La lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza è sotto i tuoi occhi ogni giorno e spesso non è meno feroce e spietata di quella che si svolge nel mondo animale. Quindi, per vivere, per sopravvivere su questa vita, in questa vita che pure avrà un termine, a quali sacrifici e a quali lotte non siamo disposti a sottoporci? Ebbene, cari amici, a un livello più elevato, invisibile ma realissimo, si combatte una battaglia ben più grande, che coinvolge cielo e terra, e la cui posta in palio non è qualcosa fuori di te, ma sei tu stesso. L'uomo è l'essere più conteso che esista. Io vi ho detto che l'uomo è sempre abitato. O è abitato da Dio, o è abitato dal demonio. Se è in grazia di Dio, è abitato da Dio. Se è in peccato mortale, è abitato dal demonio. L'uomo è l'essere più conteso che esista. Prendi in mano la Bibbia e te ne renderai conto. Fin da quanto si trova nel paradiso terrestre, è insidiato da un nemico astuto e malvagio che lo vuole rapire a Dio e sottoporre al suo spietato dominio. Questo è l'inizio della Bibbia, cari amici. La Bibbia inizia così e guardate come finisce la Bibbia. Perché vedere come la Bibbia inizia e come la Bibbia finisce ti dà un po' anche la chiave di interpretazione, ti fa capire quali sono le cose importanti della Bibbia. Dunque la Bibbia fin dall'inizio ti dice che l'uomo è insidiato da un nemico astuto e malvagio che lo vuole rapire da Dio e sottoporre al suo spietato dominio. Le ultime pagine della Bibbia ti mostrano l'esito finale di questa interminabile guerra, che vede il trionfo di Cristo e i suoi nemici che precipitano nello stagno di fuoco e di zolfo. Vedete, la Bibbia incomincia con la vittoria di Satana, finisce con la sua sconfitta per l'eternità. Verrà gettato Satana e tutti i suoi seguaci nello stagno di fuoco e di zolfo e là resteranno per i secoli dei secoli. Espressione che vuol dire per sempre. E di cari amici, come non si scherza, la Bibbia si apre con la vittoria del demonio e termina con la sua sconfitta. Come dire che la storia umana incomincia con l'insidia satanica che è vittoriosa, il centro della storia è la sconfitta di Satana, il termine della storia è la eliminazione di Satana dal raggio del bene, e quindi questa chiusura nello stagno di fuoco di zolfo sta a indicare l'assoluto isolamento del male. Al centro di questa immane contesa fra Dio e Satana ci sono gli uomini. La storia dell'umanità, dal paradiso terrestre alla Gerusalemme celeste, è lo svolgimento di questa battaglia. La Bibbia ci racconta la storia della salvezza, cioè lo svolgimento di questa battaglia. Dopo la catastrofe delle origini, cioè la caduta di Adamo ed Eva, che concedeva a Satana un certo dominio sull'umanità, un certo dominio, naturalmente quello che gli dà l'uomo, non un dominio assoluto che è soltanto di Dio quello. Dunque, dopo la catastrofe delle origini, che concedeva a Satana un certo dominio sull'umanità, è venuto il momento della vittoria di Cristo e della redenzione dell'uomo. Noi, caro amico, già godiamo dei benefici di questo trionfo, ma il drago è solo ferito e la sua capacità di sedurre e di divorare è ancora molto forte. Dunque, noi in quale fase siamo adesso? Siamo nella fase in cui, mentre prima di Cristo il drago aveva un dominio molto forte sulla terra, ma non assoluto. Perché non assoluto? Perché comunque il drago non poteva violare la libertà dell'uomo anche prima di Cristo, perché il peccato originale ferisce il libero arbitrio e quindi la capacità di fare il bene, ma non la toglie. Tuttavia, il drago ha un dominio molto forte sulla terra perché il libero arbitrio dell'uomo ferito e incline al male si volge con più facilità al male, quindi aggrava la schiavitù. Con la venuta di Cristo l'azione del drago non è tolta, attenzione. Il drago continua a operare qui sulla terra, con la venuta di Cristo. L'azione del drago non è tolta, ma all'uomo viene data la grazia di Cristo con la quale può vincere il drago, può sconfiggerlo. In che modo? Nel applicarsi con determinazione al bene, alla luce, alla verità, alla gioia, alla grazia. Quindi noi siamo in questa fase della storia dell'umanità, ben migliore di quella di prima di Cristo, nella quale il drago agisce, è pericoloso, anzi pericolosissimo, più di prima, perché la luce di Cristo lo mette in luce e quindi attacca con più ferocia. Ma le anime sono molto più armate oggi per combatterlo, a meno che non siamo noi così stupidi da disarmarci dicendo che il drago è un buon cagnolino, un buon gattino. Cioè, noi trasformiamo il leone ruggente in un gattino da sala. Questa è la grande stupidità del nostro tempo. Quindi noi già ora siamo in una fase molto propizia perché il drago è ferito. Anche se lo possiamo vincere con la grazia, ma la sua capacità di sedurre e di divorare è ancora molto forte. Ci deve essere ben chiaro che la posta in gioco siamo noi. Cioè, la posta in gioco, l'obiettivo di questa battaglia è la nostra anima, cari amici. Non è il portafoglio, è l'anima. Ecco perché non possiamo restare indifferenti o solo spettatori, come se la cosa non ci riguardasse, perché c'è il nostro destino eterno di mezzo. Dall'esito di questa lotta dipende il destino eterno di ogni uomo. Tutte le battaglie della vita possono essere perse senza conseguenze irreparabili, perfino la battaglia della malattia che può finire con la morte, anche questa è una battaglia che si può perdere senza conseguenze irreparabili, purché si vinca la più importante, l'unica che è assolutamente necessario vincere, quella che riguarda la salvezza eterna della propria anima. Forse ti chiedi perché mai l'uomo sia al centro di una guerra così aspra che percorre tutta la storia dell'umanità dall'inizio sino al compimento. La chiave di interpretazione la trovi nelle prime pagine della Genesi, laddove si afferma che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, infondendo nell'Adamo, tratto dalla terra, il suo soffio divino. Ecco il perché. L'uomo è al centro di questa battaglia, non il gatto, il cane, o il leone, o la scimmia, ma l'uomo. Perché? Perché solo l'uomo ha il soffio di Dio, ha l'anima immortale. Non sa cosa farsene di cani e di gatti, Satana all'inferno, vuole gli uomini perché hanno l'anima, vuole rendere schiavo questa perla divina. Vi è qualcosa di divino nell'uomo ed è la sua anima. Tu che sei abituato a considerare come preziose le cose materiali, forse non afferri appieno il valore infinito dell'anima. Esso però non sfugge al demonio, che è purissimo spirito e che è in grado di valutare la distanza abissale che separa l'anima spirituale dalla creazione materiale. Il Satana non sa cosa farsi del mondo intero, a lui interessa più un'anima che tutta la creazione. Perché Satana, che è puro spirito, sa qual è il valore dell'anima, immagine di Dio, libera, intelligente. Satana, per Satana non ha prezzo un uomo che si sottomette a lui. Il godimento che lui prova nell'essere adorato non ha prezzo, ma non l'avrà certamente da un gatto, da un cane, ma dall'uomo può averlo. Ecco perché è arrivato al punto da dire a Cristo: ti darò tutto se tu prostrato davanti a me mi adorerai. Che cos'è l'anima? Non è qualcosa che tu hai, ma sei tu stesso nelle profondità del tuo io, capace di comprendere, di scegliere, di decidere e di amare. La nostra anima non è Dio, ma qualcosa di divino, perché rende l'uomo capace di Dio e lo pone dinanzi a lui come una persona dinanzi a un'altra persona, nella possibilità di conoscerlo e di ascoltarlo, di accoglierlo e di rifiutarlo. Grazie alla sua anima spirituale immortale, l'uomo sta di fronte a Dio in modo libero e cosciente. Egli può riconoscere e accettarlo come suo creatore e signore, come suo padre e amico, ma può anche respingere il suo amore. L'anima è ciò che di più prezioso esista nella creazione. Tanta è la dignità dell'uomo che Dio si è potuto fare uomo. Tale il valore di un'anima che, anche per una sola, come affermano alcuni mistici, Cristo avrebbe sofferto la passione e la croce per salvarla. D'altra parte, Gesù stesso è molto chiaro al riguardo e pronuncia parole che ogni cristiano dovrebbe scrivere a caratteri di fuoco sul suo cuore. La trovate questa frase in Matteo 16:26. Quale vantaggio infatti avrà l'uomo, dice Gesù, se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? Nulla vi è nell'universo di più importante di un'anima e nulla è più caro a Dio dell'uomo. Lo ama come un figlio e per lui ha preparato ciò che di più grande l'Onnipotente potesse concedere. È possibile infatti un dono più grande della partecipazione dell'uomo alla natura divina? Ebbene, cari amici, Satana è geloso di tutto ciò. Egli, che voleva essere come Dio, lo sfida contendendogli ogni anima, cercando in tutti i modi di sedurla per farla sua, per diventare il suo signore nel suo regno di morte. Ogni anima strappata a Cristo è per Satana un grandissimo trionfo. E quindi è delle anime che Satana è estremamente goloso, e quelle che vuole raggiungere, che vuole ottenere con tutte le sue forze. Però c'è un però per avere le nostre anime, così come Dio per avere le nostre anime ha bisogno del nostro consenso, così Satana non può impossessarsi delle nostre anime senza il nostro consenso. È una cosa che ci deve far meditare, cari amici, perché molte volte noi abbiamo paura del demonio, ma non ci rendiamo conto, cari amici, che il demonio non può assolutamente farci nulla se noi non vogliamo. Come diceva Caterina da Siena, egli ci può colpire soltanto con quel pugnale che noi stoltamente e liberamente gli mettiamo in mano. Quindi Satana non può impossessarsi delle nostre anime senza il nostro consenso, ma neppure Dio lo può. Cioè Dio che ci ha creati liberi non può negare il progetto della sua creazione togliendoci la libertà. Quindi diceva Sant'Agostino, colui che ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. Ma neanche Satana può portare te alla perdizione senza il tuo consenso. Allora c'è una lotta tremenda fra Dio e il demonio per avere il nostro consenso, attraverso il quale essi hanno la nostra anima. Ma se l'anima l'ha Dio, l'ha colui che l'ha creata, a sua immagine, quindi l'anima è beata. Se l'anima l'ha il demonio, ha colui che ha negato il creatore e la vuole distruggere. Allora vedete, cari amici, che questa lotta fra Cristo e Satana, al centro c'è la nostra anima, noi ne siamo i protagonisti, è una lotta che riguarda il nostro destino eterno, ed è una lotta che è decisa in ultima istanza dalla nostra libera volontà. E adesso, prima di finire, faccio un'ultima breve osservazione, perché naturalmente, come avete compreso anche voi, cari amici, il problema del demonio è quello di avere il nostro consenso. Come fare per avere il nostro consenso? Siccome sa che noi siamo orientati al bene, allora lui, e siamo orientati alla luce, e siamo orientati alla verità, allora Satana, per avere il nostro consenso, non può mostrarsi, perché lui è l'antiverità, l'antibene, l'antiluce, lui è la menzogna, lui è l'odio, lui è la tenebra, quindi non può attirarci, non può sedurci, perché noi siamo orientati al bene, siamo fatti da Dio per Dio. Allora ecco perché è un falsario, perché per attirarci a sé e per avere il nostro consenso deve vestire i panni del frate. Deve mentirci, deve presentare se stesso come un benefattore, deve presentare il male sotto forma di bene, deve presentare la tenebra sotto forma di luce, diversamente non potrebbe avere il nostro consenso. E quindi falsificando, camuffandosi, falsificando le cose, per cui lui si presenta con la falsa pietà, con la falsa pace, con la falsa preghiera, con la falsa verità, no? Falsifica tutto perché? Perché sa che noi siamo orientati al bene, allora per avere il nostro consenso, dice Santa Caterina da Siena, presenta sempre le sue seduzioni sotto colore di bene. Ecco allora perché il primo passo, il primo punto, il primo gradino da fare, insomma, nella lotta contro Satana è lo smascheramento. E dire attenzione che Satana è il nemico, Satana è la tenebra, Satana è il malvagio, Satana è il mentitore, Satana è l'omicida, Satana è la tenebra, Satana è il leone ruggente, Satana è il drago. Fare quel lavoro che fa la Bibbia. Cosa assolutamente che da troppo tempo noi non facciamo. Ecco, cari amici, dunque abbiamo letto il secondo paragrafo e commentato del primo capitolo la vita è una lotta, del nostro libro di testo che è Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Come avete capito ormai qual è il procedimento che usiamo, è un procedimento rigorosissimo, basato esclusivamente sulla Bibbia e il Catechismo della Chiesa Cattolica, come avrete modo di constatare sempre di più, che ci porterà